odio tante cose da quando ti conosco e non ne conosco neanche il perché, ma lo intuisco, odio il mio nome solo senza il tuo, ogni fottuto addio. Io odio quando ti odi e mi allontani, perché hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro e ti amo. E con le mani dico quello che non so e tu mi ami. Trama sintetica di una giornata storica. E tutto è perfetto, tutto somiglia a te. E un anno va bellissimo, bellissimo, così com'è. Sei più forte di ogni bugia, se la gente ferisce, perché tu sei migliore, lo capisce bene. La tua timidezza non condanna, no, ma ti eleva da chi odia, chi ferisce, inganna. Perché tu hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro e ti amo. E con le mani dico quello che non so e tu mi ami. Trama sintetica di una giornata perché storica è. Tutto è perfetto, tutto somiglia a te. E un anno va bellissimo, bellissimo, così com'è. Io non mento, non importa cosa dicono. Nel silenzio guardo le anime che passano. Di queste anime tu sei la più speciale, perché sorridi anche inseguita dal dolore. E T-A-M-O. Anche se soffri poi pretendi non si veda, quando vorresti che il sorriso tuo invertisse la controregola che regola le masse. Se tu mi ami, dici che esistono solo persone buone, quelle cattive sono solamente sole. E forse è così. Hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro e ti amo. E con le mani dico quello che non so e tu mi ami. Trama sintetica di una giornata storica. Hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro e ti amo. E con le mani dico quello che non so. Trama sintetica di una giornata storica. Hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro.